poquito de coche ahí cuando cante el brazo ahí, ¿sabes? Pues ya está, y si esa vieja punto aún. Es que 10 horas de este, Juan, a ver si te llega esto y termina lo que han hecho allí, ¿venís que? Sí, más o menos, pero era, eso no sería de hoy, ¿no? ¿La matado era hoy? No, no. ¿Y qué te va a coger? ¿Yo igual, con el mismo ruido? Depende de quién, ¿no? A ver, ¿para qué tú estabas enseñando con los móviles? Poi dice che sei sempre all'ascolto, non ci sei mai, mi Marco. È inutile che vai alla radioattesa e sei drumito. E beh, zitto. Oh, zitto. Marco, Marco. Ci sei sempre, non ci sei mai. Tratta lì. Acci sei, acci. Mamma mia, come sto... è una musichetta che ho messo io. Poi, no, una musichetta così. Una musichetta di Europa, stavo accendendo il Galaxy, volevo vedere come andava. Stavo controllando tutta la lampada da Cicicocco. Ehi, ehi, neanche io sto usando quello. Cosa, il Galaxy Saturn Echo? Yes, che sì. Perché anche tu il Galaxy c'hai, dai, quando vi... E prima di te forse ce l'ho sempre io, sempre dentro l'armadio. E con che microfono ce l'hai, Icla? È un MB5. Ehi, allora. Aspetta che ti mando una cosa, Claudio, per vedere se ti piace. Su WhatsApp, no? Manda, manda. Adesso vi metto la portante su WhatsApp. Brutto bastardo, ciao. Ciao Gianni, ben sentito. E allora, che te mi conti? Niente di nuovo, anche oggi non sono uscito, sono sceso in macchina solo a fare delle misurazioni. E boh, pensa che una volta nelle chat IRC, non so se le mai conosciute, le chat IRC, Internet Relay Channel, la portante la potevi mettere davvero col computer, bastava floodare la persona interessata e non riceveva più messaggi, o li riceveva molto ritardo. C'erano proprio dei programmi per IRC che avevano incorporato delle... era proprio delle interfacce da guerra, capito? Quei tempi, tipo PizzaScript o cos'erano? No, no, non PizzaScript, erano molto peggio. Quei tempi. Ehi, ehi, no, non lo conosco, ma è quello lì. Ehi, sono vecchi a me. Diciamo sono comparse dopo la rete Fidonet, credo, o come si chiamava, quella della famosa operazione pulizia, che avevano sequestrato tutto, anche i tappetini del mouse, pensa, perché credevano ci fossero minacce, capito? Te l'ho detto che siamo in un paese sovietico. E allora, aspetta un secondo che fanno una cosa a clou. Se vuoi poi la mando anche a te. No, no, Gianni, non me l'ha dato nessuno, è il mio. Ce l'ho da un bel. E queste cose ce le deve fare, ce le va così anche lui. Proprio poco l'ho chiesto, non però. No, questo mi aveva messo Massimiliano. Ehi, ehi, ma io ce l'ho originali come dalla casa, è uguale, è proprio preciso. Sì, mi ha fatto le tolghe perché non ci vedono accidenti. Sono belle, ma le tolgo. Se le metto le sue bianche. No, è perfetto, non lampeggia, non fa, è perfetto. Non va nuovo. Mandami, cos'è che mi devi mandare? Ciao Marco, buonasera. Figlia, ciao Claudio. Ho sentito musichette o fischi e sono entrato a ascoltare, dai. Ma io ti ho chiamato poco fa e tu non hai risposto. Buongiorno. Non lo so, poco fa ho chiamato, andiamo in stazionaria, perfetto, zero completamente, anche perfetto come stazionaria sto strumento. Poi ti ho chiamato poco fa ma non mi hai risposto. Ho acceso da pochissimo, da poco, 5 minuti credo, prima era spento. Va bene, dai, manda Gianni, manda, basta, metto che ha pescato, mi. Dove l'hai fatto questo? No, ieri. Ieri? Ieri, ti piace? Bello. Bello, bello. Tutti e due che vengono. Ma dov'è il braccio, la cuccia? Braccio, braccio. In alto, spero, sì, come ce l'ho io. Sì, sì, in alto. Se no, basso. Basso è un casino, non mettere magliette. Rottura di balle. No, bello, bello. Ho sofferto un po', Però, già ne passa la pena, bravissimo, Ma che te l'ha fatto, Manola? No, quello di Bianchero. No, io vado sempre a Manola. Se me devo fare un altro, all'altro braccio però vado a Manola. E ci lavora mia nipote, capito? Quindi mi fido di più, Li conosco, non è perché. Li conosco. Va bene, va bene. Natalino, ci sei all'ascolto? Non c'è oggi, Sarà in crociera. Crociera, sì. Capito mi hai, Marco Condor? Ti ho chiamato poco fa io, perché sono entrato un attimino in VHF 525 a salutare a Salvatore e a Maurizio. Sono rimasto lì un pochino, poi ti ho chiamato qua, ho visto che non c'eri, e allora mi sono messo in ascolto un HF. Veia, l'ho acceso da pochissimo. 5 minuti o meno e poi ho sentito queste fischi, musichette. Sentito voi due là. Ero io facendo casino per far entrare qualcuno perché non sentivo nessuno, allora ho fatto casino per entrare. Ebbene, ricevuto Marco. Adesso guardo, non sai perché qua non prende, devo andare nell'altra stanza. Un attimino che lo guardo. La tua ragazza blindata, una stanza biglia e l'altra no. A me finta che è un gommo lo biglia lo deve. Dimmi anche dentro l'ascensore, lo sai, io non pensavo, invece anche dentro l'ascensore continuo a parlare e mi sento. Sì, anche io dentro l'ascensore, sotto il porticato, a tutte le parti prende qua, vabbè, sono in alto però. Quando c'è la zona d'ombra, c'è la zona d'ombra. Però non ti piace l'MB più 5, esce bene con questa radio. Vabbè, questo è modificato, questo me l'ha dato Gigi l'MB più 5. Sì, esce benissimo, Claudio. Non bene, benissimo, chiarissima la voce, una bella voce presente. Io ce l'ho neanche a metà, perché mi hanno detto di abbassarlo, che era troppo forte. Vabbè, questo è modificato, Gigi ha azzeccato la capsula, va bene. Esce più forte del più 4, io cerco il più 4, però è normale. Esce bene lo stesso, però meglio questo, usato questo qua. Va bene, va bene. E questo era sempre là, sempre dentro. E io ho tutti un bel po' di radio. Adesso iniziamo a fare la conta, li mettiamo in vendita. Come un regalo. A mia sorella ti posso regalare a te, tanto non trombi, quindi. Oh, l'ho visto, ma è un'opera d'arte. È proprio un'opera d'arte. Ti è piaciuto? È bravissimo, no, questo è. Non per dire niente a Marona, ma questi qua di Sassari Tattoo Club sono fenomenali facendo. Io guarda, c'avevo una ragazza vicino, se lo stava facendo dietro la coscia, c'era un altro che glielo facendo. È stato bravissimo, anche quello gliel'ha fatto perfetto, sembra fotografato. Ma tu gli hai portato una foto di esempio da riprodurre? Sì, sì, gli ho portato la foto sua, mentre era accucciato e con la testa abbassata sul divano. L'ho ripreso da lì la foto. Eia, hai un'opera d'arte, poi a colori, caspita. Si rivolto, ma l'ho fatto, sai quanto costa? Se tu dico ti metteva lì. Dai, grosso modo. Per volermi bene, non le volevo a 3,50. Per volermi bene, siccome gli ho portato altra gente, mi ha fatto lo sconto, 2,50. Sì, beh, credevo peggio, dai. Ci è andata bene, diciamo un prezzo onesto, dai, poi è ben fatto. No, guarda, qualcuno spende anche di più per farsi una cagata in bianco nero, cioè in nera, brutta. Come l'avevo vista io, una persona, mamma mia che cosa brutta. Brutto, brutto, brutto, quello almeno è bello da vedere. Quello lo potrei sfoggiare l'estate prossima in spiaggia, mi. Ciao, quello è il prezzo mio, e anche Manola, quello ci ha fatto l'aria 250. 300, una voleva, gli ha lasciato 250, quelli sono i prezzi, quello che io avevo pagato 5 anni fa 140 euro lo stesso, quelli sono i prezzi. Sì, si fanno un bel insulto in casa, un bel insulto. Guarda, ieri mi aveva 3, a me mi ha tenuto dalle 4 sino alle 9. L'ha iniziato e finito praticamente. Sì, sì, se io voglio li faccio le subatture attorno, ma non me ne frega nulla, 150 euro ancora ci vogliono, lascia perdere. Ah, vai, va bene così. Già va bene così. Ottimo per la truppa. Ma io devo fare un altro, però non così. Non Filippo, per capirci. Un altro, l'ho visto molto bello. Va bene, avanti Marco, riprenditela. Oh, ora, ora, già va bene, sto guardando il water, sto già cammino. Ma quello è truccato però. Questo è stato fatto un lavoretto, da praticamente la potenza io ce l'ho al, per capirci, power, eccolo qua, contati i puntini, una, due, tre, al quarto puntino ce l'ho, al quarto puntino a salire praticamente da zero, quindi non è neanche a metà, e sta dando sul la T230, ora, allora, 12 watt di portante bianca, 20, 25 modulati. Attento però, che questo è praticamente uguale al tuo, però l'interno è quello 25-50 watt SSB, capito? Ho capito. Ma cosa c'ha, anche le cocotte? Sì, c'ha tutto. Metti a vedere com'è. E cocotte cosa? La modifica? No, non ne ha modifica, c'ha solo la modifica della potenza, basta. No, c'ha solo il bip, che è questo, e buh. E allora i bip del gas? Sì, è l'eco suo che non l'ho mai usato, niente. Nulla, no, ecco colto, ma non te n'hai, questo è normale, c'è solo una piccola modifica di potenza e basta, capito? Una piccola modifica di potenza e boh. È 220, tutto originale, anche cavetto 12 voci, però come vedi non ronza, è una nuova, è nuova, perfetto. Se non ho dovuto togliere le maniglie, quella è la foto che ho fatto prima, se non ho tolto le maniglie perché l'ho spostato e se no mi toccava sugli altri radio, ma le grazie. È un bel mano, per quello no. È un bel ragione, già io non ne ho posto, c'ho troppo il radio, capito, e questo prende troppo posto. Infatti l'ho messo sopra al DAC per quello. Ma senza la maniglia non è lui, è come un quadro senza cornice. Le maniglie sono quelle che gli danno proprio un effetto, sembra spoglio senza maniglie, però io lo vedo così, io che il Galaxy l'ho sempre amato, mi è sempre piaciuto, poi deve avere tutto. Come se poi non ha questione di spazio, ciccia, però le maniglie mi fanno da cornice, dai, anzi sarebbe l'ideale incastonarlo in qualche mobile fatto in alluminio, roba del genere, fare una specie di cosa con tutte le luci eccetera eccetera per accendere gli apparati, sarebbe bello incastonarlo così, perché quello è fatto proprio apposta per incastonarlo. Lo so. No, è per questione di spazio che gli ho tolto, capito? Se no mi graffia l'altra radio che c'è a fianco. Allora per non toglierne una gli ho tolte tutte e due, però già, bello lo stesso, già va bene, mi piace. Già va bene. Avanti Marco, li riprendi. Questa è una maniglia tua. Però come tu riusci? C'è una maniglia, sì, sto mandato anche la foto con le maniglie, le ho tolte io ieri perché stava praticamente, come l'ho spostato leggermente per stare sopra l'acqua, una maniglia mi toccava al 790, me lo graffia, allora l'ho tolta, e non è che posso stare una maniglia sì, una no, allora le ho tolte tutte e due, capito? Chiamo adesso tuo foto con lei, avanti chi chiama? Valerio. Valerio. Vabbè Valerio, stanno parlando tra di loro. No, ti ho detto che stava chiamando a Franco, ma non c'era. Ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato. E Valerio, buonasera. Ehi Valerio, dai, dove te la trovi di bello? Ehi, ma dove sei? In Girella, sì. Ma come mai? Andare, dai, già siamo qua in compagnia, piano piano mi esce con il freddo, tutti quanti si rintanano. ciao Valerio, se mi ascolti, dai. Io sono sempre un 4 watt. Alla fine ci ho preso l'abitudine, dai. Meglio così. Bene, ma sono senza parole, dai, parlate voi. Parlaci di donne, che così ringraziamo tutti, dai. Parlate con Mulo. Dillo me, arrivi due. Buonasera, Natalina. Buonasera a tutti. Che bagara. E allora, in girella ieri, ti stavano chiamando, boh. Ma cosa in girella? Sono col bacco, l'occata, mi fa male. Il ginocchio non posso stare. Ah, devono essere attrusi sicuramente. Sì, io ce l'avevo la cuscia l'altro giorno, mi è durata 3-4 giorni, ho dovuto prendere l'occhi, che io sono sempre vestito a prendere pastiglie, ma non potevo più dal dolore. Ho fatto lo strappo praticamente, ero in pescheria e sono scivolato per non cadere, ho allungato la gamba, sento tra appunto, sono rimasto secco qua, un dolore da E lo so, io ho anche un dolore che mi viene quando sforzo al femore, quando sono caduto uscendo dall'ufficio di collocamento. Qua, meglio la morte. E all'aggiuntura io ce l'avevo lì, proprio all'aggiuntura del femore dove c'è lo snodo che va al bacino. Lì ce l'ho io. E sono caduto uscendo dall'ufficio di collocamento che stavo facendo una domanda. Da quando sono caduto per rasinare isso quando sforzo a camminare, un dolore meglio alla morte. Ma dalle scale è caduto? Dall'ultimo gradino sono caduto, dal marciapiede sono caduto. Qui si era rotto il malleo, eravamo al ciso di lì proprio, e nell'ultimo gradino ha messo il piede nell'angolo, aveva la bambina in braccio, piccolina, e si era rotto il malleo, è stata 3 mesi tra un gesso e l'altro, un'operata e tutto. Mamma mia. E quella era la prima volta in Capodanno, stavo festeggiando lì al ciso quando era lì. Agostino Del Feno, quello del Ciso, quello che fa. Ehi, che adesso è guardia Zuffila. Era. Non è guardia Zuffila, era proprio il comandante delle guardie Zuffila. È morto l'altro volontario, morto di tumore. Agostino. E allora? Cazzo, era andato in pensione, cosa ti posso dire? L'ho trovata la cavalcata e mi ha detto che era 2 mesi che era andato in pensione. Stava sempre guardando, no, sono già 2 mesi in pensione, già oramai ce l'abbiamo fatta, adesso ci rilassiamo un po'. E già si è rilassato, ed è venuto questo tumore, non mese se l'ha portato via. Gesù Cristo mio, cosa mi si dice? Non ne sapevano. Mi dispiace, se no sarei andato al funerale, poveraccio. Proprio Agostino che... Io sono andato, Natali, ma come l'ho saputo? Ho preso Facebook e ho visto che Edoardo ha scritto voglio ricordarti come così, e ha messo la fotografia. E uno gli ha detto perché Agostino è morto? Dice sì, purtroppo sì. Allora ho preso il mio comprato il giornale, c'era scritto che i funerali erano la sera e io la sera dovevo lavorare. Quindi cosa ho fatto? Ho dovuto telefonare, mi ha detto che mi davano una risposta perché non c'era chi di dovere, e alla fine non mi hanno dato la risposta, sono sceso al lavoro, mi ho fatto un'ora e poi ho chiesto il permesso e sono andato al funerale. Oi. E il curare dove dico. Come si dà l'impressione, i muri e così si danno in due serie di all'Inps. E allora non lo fanno apposta, non lo fanno per farti crepare. Sarà da lottare di modo che tu non duri. E chi dà la ragione? Andamela. Cambiamo discorso, avanti Marco, anzi, a chi spetta? A Parigno. Allora, come ascolti alla Righiera? Alla Righiera come sta arrivando? E Claudio all'altura che lo favorisce. Pompa. Sta pompando. Io a pompare non vengo qua, come diceva Napoletto al telefono. Pompa, pompa. E lui è pompa quella cosa di tua madre. Hai capito? Claudio, ci sei? Mimì. Poi dice a me che mi assento senza avvertire e mi fa un bel storia. Ma è presto, lui arriva alle 7:30, sono solo 6:15, no? Eh sì, credo che sia l'ora. Ma che palle, tutte le giornate uguali. Ma davvero un po' di inventiva. Inventiva, Marco, ci vuole. Lo so, ma sono demotivato in tutto, mannaggia. Mannaia. Reagisci, reagisci. Tutti lo so, ma demotivati, ma poi uno reagisce e cazzo. Che poco che me la sono goduta quest'estate. La sono goduta ben poco. Pazienza. A me lo dice, sono andato 3 volte al mare. 3 volte è contato. Meglia. Io non ho vissuto metà di estate, tipo un mese e mezzo massimo, tutto il resto niente. Ma ti dirò che non è che ne avessi voglia più di tanto, ogni volta a portare tutto, a cercare il parcheggio, perché lì, caspita, vanno tutti presto, capito? Non è... Il parcheggio lo trovi con un po' di difficoltà. Portare tale roba in spalla, sediole, brombrellone, fino in spiaggia lì, poi lo stesso, niente, sta a posto, e tornare in macchina, detto che può, che si prende, si paga ombrellone, lettino, capito, fai così, senza niente, paghi e ti affitti lettino, ombrellone e tutto il resto. Vabbè, quello sì. Natalino. Natalinus. Natalino. Se sentano tutti qua, dai. Mi sa che mi innando. Mi attacco la televisione, dai. Marco, già vado a cubretto. Mi sono assentato per aprire la porta. Mia moglie pure lasciavo. Così quella mi tirava una fucilata. Ah. Eia. Ho trovato su internet dalla Cina un antenino veicolare con la base da 3 cm magnetica, alto 14 cm e il cavo ultra sottile. Quello è abbastanza discreto per te. Ma per che cosa? PMR. Ah. Capito, Natalino? Stile ultra sottile. Con una bobina al centro, no? le spiraline al centro, solo 14 cm, il cavo è RG174, più piccola è quella, non vi ne è. Ma bisogna vedere se regge la base magnetica. Sì, che regge, è una cosa talmente... Quello con l'odota io, fino a 100 orari, le mie che sono alte 50, quella è alta 14, è molto più bassa. Il problema è, bisogna vedere se risuona lì. No, una che risuona me ne serve, se no è peggio andare al buio. Lo so, che poi non è 5 ottavi quella, quella mi sa che è un quarto d'onda, da quanto è piccola. VU ovviamente, va bene anche per il ricevitore, però è come avere l'antennino sopra la cappotta, l'antennino dello scanner. Io ho sempre preferito le 5 ottavi, 50 cm, 5 ottavi. 50 cm è VU. Ma anche questa da 14 è VU. No, no, balle, è solo UHF. E ha l'attacco SMA femmina, proprio per quello che hai tu. Cioè sia maschio che femmina. Costa una miseria di 6 euro e spicciolini. Volevo provare a ordinarla, vediamo come va. Comunque male che vada, anche se non va bene per lì, si usa per il ricevitore. Ho visto già che esistono ancora gli UV3R Mark II, UV3R Mark II nero, credevo fossero spariti, e poi c'è questo UV3R Plus che è molto simile d'aspetto, ma non ho capito cos'ha di Plus. Me lo devo studiare bene, capire le differenze. Io non avevo più visto in giro, pensavo che non ce ne fosse nemmeno io. Quelli bau bau. Quello piccolino piccolino che sta nel palmo della mano, quello è un piccolo gioiello. Avanti Sud Italia, se ascolti la Sardegna, cambio. Sta arrivando con un Santiago 4, una radio di 2, dai. Però ti ascolto, là, ti fai, sono in compagnia di altri amici, non so se vuoi andare avanti. Da parte mia la stazione è Gianni W del QTH di Sassari, Nord Sardegna. Avanti la tariffa. Non lo sento, ma poi stavo parlando in verticale con la 50. Tu lo senti Marco? Mo. E allora vai avanti e saluti. Gli altri non ti ascoltano, collega di Bari, dai. Non so come ti stia arrivando io di segnale, mi dai un segnalino di Radio Santiago, grazie. È morto, avanti Marco, là. Sento chiamare. Sai cos'è già? Che siamo purtroppo lontani dalla fase di eruzione solare massima, che è ogni 11 anni, ed è quella che favorisce proprio la propagazione. Adesso la propagazione è solo sporadica, cioè si apre per pochi minuti o pochi anche istanti e poi si richiude. Infatti questa non è propagazione, quella è quando c'è l'attività solare. Adesso non mi ricordo quando tornerà il ciclo solare, è ogni 11 anni, e favorisce la propagazione in HF e quindi anche in 27. E noi praticamente siamo nell'ombra adesso, capito? Ma quest'anno mi sembra che la propagazione non ce ne sia stata più di tante, vabbè io ho acceso poco con la verità d'estate. Ma non mi sembrava molta come gli altri anni. Ma ti dirò, io non ne ho manco fatto di sì, giusto un giorno, massimo due, si sentiva bene tutta l'Italia, da su, dalla Svizzera anche fino alla Sicilia. Però no, non ho più gana, sono demotivato, te l'ho detto. Anche quella è una malattia. Ehi Marco, demotivato, figlia di un cane, esci dimmi, fai come faccio io. No, no, per carità, ci manca solo il cane a complicarmi la vita. Eppure sono belle giornate, solo che... non lo so, non... poi tanto qua vedi sempre i soliti posti, Platamona, coso. Sassarisi d'altronde non ha alternative. Anche Alghero si può andare, sì, però sai, un po' lontano, consumi più benzina, alla fine vai lì per vedere, anzi bancarelle non ce n'è più, l'estate passata, vai lì a mangiarti una pizzetta e poi torni indietro, va. No, ma non ce n'è più, sì, ci sono le bancarelle. Ma dopo agosto non so se ne andavano tutte, le bancarelle, sai, quelli pakistani, cinesi, tutto. Ah sì, beh certo. Stagione più via. No, ma dico, c'erano quest'anno, li ho visti io, ma quindi c'erano. Però via. Bisogna avere solo la volontà di fare le cose. Prendi, parti, vai. Solo che se non c'è nessuno con cui andare non ci prendi gusto, certo. Se per dire c'è una bella peschidina a fianco, ti sprovano. Quello sì, insomma. Vabbè, a me piaceva molto andare anche da solo per conto mio, meglio che portarsi gente e poi li senti, aio che paranoia, aio torniamocene. Così era successo una volta a Pesca, tanti anni fa, ci avevamo portato questo, oh che paranoia, questa Pesca, io mi avvedo, ma capito, ti rovina la serata, allora meglio ognuno per conto proprio. Per quello io dico sempre, almeno che conosca la persona, quando vado a pescare lui in macchina sua, se uno se ne vuole andare prima, se ne va prima, se uno si può trattare e si trattiene. Poi in macchina sua, poi, almeno che sia una persona che sia conosciuta e che non ti dia problemi, se no fa andare così e meglio non andarci. Sì, è vero, è vero. Ci vogliono, cioè, quando si va a pescare bisogna pescare tutti, non che ti porti il solito che sta lì in paranoia, capito? Va bene. Ma Claudio, se vediamo se forse ha dato da mangiare al cane, davvero. Ci sei Claudio? Va bene, non ce ne gana, ho capito, dai. Già, mi sa che chiudo. Aspetta, cara. Va bene, io ci sì. Ma se non ti rimango nell'ascolto, cosa parliamo? Con Muro parlo io. Parla con Muro. Sì, vabbè, vale, dai, con Codix allora. Scherzavo. Natalia, avanti, dimmi la tua, io. Sì, mia moglie è andata a portare il cane, finalmente è solo. A Concetta ha fatto vedere, vera? Ehi. Mi ha detto due. Ehi. Quelli che hanno visto, penso che è un capolavoro, anche gente che ne ha tanto. Veramente è bello, complimenti. Bello sì, è un'opera d'arte quella. Caglia, vabbè, ma non dovevo fare, l'avevo detto. Ho deciso, però stavo ero rimanendo in dinamica. Chissà quanto ti ha fatto male, mamma mia. No, Natale, ti giuro, in certi punti sentivo solo la vibrazione. Solo nell'angolo che mi ha fatto un bel male, e la scritta mi ha fatto soffrire, mi ha fatto scendere l'acqua. Perché la scritta, sai cosa ha fatto? Invece che punteggiare, che fa la punteggiatura, la tirano di lungo, capito? Quello gli fa un bel male. Eia. Bisogna un po' patire per i tatuaggi, pensa che c'è gente che se li fa in posti molto ma molto delicati, deve fare un male cane, neanche sugli organi genitali. La ragazza che ci dava se l'ha fatto sotto al seno, era fianco a me, l'ho vista io, e io gli ho detto ma mi non prendo la mano, e poi qui siamo abituati a vedere il nudismo. E tu hai i denti di ditte, no? Meno male che non c'è una che se l'è fatta sulla patata. Comunque dura un bel operazione, caspita. Hai detto che sei stato quanto? Dalle 4 alle 9? Sì, vabbè, il mio era complesso, non era di quelli piccoli, capito? Prende tutto a mano braccio, ma era complesso, era tutto da colorare, capito? Non so tutti che ti fanno colorare. Sì, quindi via a Sassari, hai detto. Invece Manola, per esempio, lei era all'Istituto d'Arte, presumo sia anche diplomata, perché caspita, che lei è brava a fare disegni, queste cose qua. La vichinga la chiamavamo, perché era alta, bionda, un po' vestiva metallara, bei tempi. Sempre che riesca, già me lo faccio un altro più grande, ma devo decidere che cosa, perché questo qua se no sfigura quello piccolo con quello grande, capito? Se è uno piccolo un braccio, uno grande nell'altro, è sfigura, bisogna fare più di grande. Natali, tu tatuaggi ne hai? A bizzeffe. Mi Gianni si è tatuato il cane, tu che sei pescatore ti tatui il pesce. Quello ce l'ho di natura. Non lo so. grondo. Via. Molto bello anche quando ho visto tatuaggi di uomini che sono tatuati la figlia sul braccio, no? Sai. Certo, quando sono troppi, tipo Corona, pare una carta geografica, ma ce n'è anche di peggio, mi. Quando fanno vedere quelli ricoperti di tatuaggi, che proprio pelle non ne vedi più, e vedi proprio... E quelli, vabbè, molti criticano, sono opere d'arte viventi, capito? Mi sa che quando muoiono gli levano la pelle e la usano da... e la mettono in cornice e la fanno vedere. Oh! Allora, l'altro giorno ho visto su Real Time un programma dove c'era questo tipo che era completamente tatuato, come hai detto tu, dita, non c'era, c'era la lingua fottuta, c'era tagliata in due, poi c'aveva degli anelli nelle orecchie, cioè la picca, c'aveva proprio i lobi delle orecchie, non esistevano più, c'era tutto in questa anello all'interno. Poi praticamente è arrivato lì, era tutto pieno di tatuaggi anche nel petto, nella pancia, completamente pieno, e gli ha detto che doveva farsi un'operazione. Ha detto: che cosa? Mi devi tagliare i capezzoli, perché il capezzolo di loro non se ne fa nulla, la donna li usa per allattare, ma loro non se ne fa i capezzoli. Ha detto: va bene, li tagliamo. Ha preso, ma non solo i capezzoli, tutto quanto attorno gliel'ha tagliato, si è visto tutto mentre incideva, lo tagliava. Poi l'ha riunito e riunendolo riuniva anche il tatuaggio che c'aveva, che rimane. Vabbè, ma levarci le normali parti del corpo, dai. Siamo andati così, teniamoceli, mamma mia, no, certi sono malati. C'è una donna che ha la lingua biforcuta, ha i cornini sotto, sai, sulla fronte, ai lati della fronte in alto, l'attaccatura dei capelli, si è messa sotto pelle di cornini, e se vedi il rilievo, la chiamano la donna diavolo. Poi con tutto quel ferrame di piercing, non passi all'aeroporto, amici, se devi pigliare l'aereo è un problema. Davvero, mio padre una volta ne aveva visto uno, c'era un programma con Dario Mignardi, non so se l'hai mai visto, si chiamava Tempi Moderni, e c'era questo tipo che praticamente era represso dalla madre perché non voleva che facessi i tatuaggi, quando lui poi è morta la madre, si è riempito completamente tutto il corpo, ci ha preso milioni e milioni di tatuaggi. Ci aveva coso l'anello nel naso, e mio padre era ancora vivo, lo stava guardando, e ha detto: caspita, e questo come fa quando gli viene raffreddore a soffiarsi il naso? Guarda, sembra una battuta, ma se ci pensi, certe cose della vita normale vengono... è un problema. Sì, c'è gente che ha anelli al naso, tutto il naso pieno di piercing, ai lati, al centro, no? Dove c'è proprio il divisorio, diciamo, tra le narici. Anche soffiarsi il naso è un problema, non è esagerato, è proprio esagerato. Una invece la chiamano la donna gatto, si è fatta talmente tirare la pelle, dividere qua sotto il labbro superiore, ma quelli non, secondo me non sono manco sani di testa, dai, perché sembra un mostro, cioè da un certo punto di vista può essere interessante, però avere la voce voleva fare una cosa del genere, puzza via. Ah, quindi sono fanatici, Marco. Oh, Marco, una cosa è farsi uno o due tatuaggi, una cosa è essere tutti pieni, no? Quelli sembrano sporchi, a me non piacciono così. Ma dai, avanti. Infatti, a me non piacciono per niente i tatuaggi, non ne ho neanche uno io. Noi, Gaggione, noi ci pigliavamo grandi e grossi tatuaggi da tabacchino, quelli che si applicano con l'acqua, poi ci mettevamo il gecko sul braccio o altre cose simili, il tribale, come bambini. Vabbè, lo facevano tutti, anche lo facevo, li vendevano anche in edicola, uscivano anche con le cingome, c'erano delle cingome che c'erano quei tatuaggi che con l'acqua si trasferivano, ma ne uscivano a metà. Sì, mi ricordo. solo che certi erano fatti male, se metà si rimaneva sulla pelle e metà si staccava. Invece certi altri tatuaggi ti dico sono fatti bene, però vedi, a me non piace avere sulla pelle niente che sia indelebile. Se è indelebile no, mi dispiace. È una cosa proprio, una cosa mia. Finché, per esempio, i pakistani facevano ad Alghero anche i tatuaggi all'enne, finché è una cosa temporanea che dura di quei 10-15 giorni, posso anche capire. Però non voglio nulla che rimanga per sempre. Questa è una scelta, Ognuno della sua presa faccia che vuole, penso. A me piacciono, perché piacciono, ma non mi piacciono esagerati. Quando sono troppi non mi piace di più, perché sempre sporco, sempre... Mi dà quell'impressione di sporciccia quando ce n'è tanto. Ma lo sai che ci ho combinato una volta? Ero ragazzino, no? Ho detto, avevo notato che certe volte la trilina o solventi del genere, acquaraggia, facevano scolorire le riviste a colori, no? Facevano colare l'inchiostro. Allora mi era venuta la brillante idea, no? Sul braccio, no? Dove c'è il bicipite, insomma, la parte superiore del braccio, di bagnare il braccio con la trilina, no? Inumidirlo, bagnarlo di trilina, là. Poi mi applicavo la pagina del giornale sull'abbraccio, no? In effetti l'immagine si trasferiva più o meno bene sul braccio, ma almeno parzialmente. Solo che poi erano inchiostri che sono tossici, non sono inchiostri per tatuaggi. Mi era venuto un prurito al braccio, lo sai. Quelle sono le cagate che facevo io, me. Tutta roba che può far male, perché non sono inchiostri, sono inchiostri per rivista, non per la pelle. No, adesso è una cosa diversa. Prima i tatuaggi li facevano con la china, adesso se ti trovano la china ti arrestano. Questo mi ha detto quando ho fatto il tatuaggio. Se ti trovano la china ti arrestano, devi avere i colori praticamente testati dall'SR, eccetera, eccetera. Non puoi usare colori che facciano male, eccetera, eccetera. Fanno compilare un foglio prima di fartelo, che tu dai praticamente l'autorizzazione e fate il tatuaggio, capito? Sì, yeah. Chissà che se i tatuaggi sono di origine, cioè se gli inchiostri sono di origine vegetale o anche chimiche, però a tossiche, diciamo, perché sai, i colori ce n'è un bel, non tutti i colori li puoi ottenere con le sostanze che trovi in natura, no, con cose vegetali. È importante che sia approvato, sì, ma una curiosità, chissà, a chi chiedere, boh. Io mi chiedo in carcere con cosa se li facciano i tatuaggi, che sono bluastri, poi tutti storti, no? Secondo me usano qualche spillo, qualche ago e l'inchiostro di china. L'inchiostro della spagna usano, ok? Per carità, mamma mia. E beh, non penso che gli diano, li forniscano l'inchiostro, perché uno se lo può sempre bere per suicidarsi, lo fa leggere il film, non gliene dà. Non lo so, sinceramente, che cosa che gli fornisce, dovrei chiedere. Ma ci deve essere uno specializzato che fa. Ma questi qui c'hanno uno che fa il piercing, l'altro che fa i tatuaggi, l'altro che fa le scritte, ce ne sono, avevano uno, c'è la sua specializzazione. Attenzione, prego, canale 10, c'è qualcuno che mi sente, cambio. Certo che ti sentiamo, avanti con la buonasera. Buonasera, 75, qui la stazione Roma 2, operatore Agostino, il rugo di Puglia, Gappa. Gappa Agostino, adesso stai arrivando bene, non so se tu sia qua, in zona, ma qua ti rispondiamo dalla città di Sassari, il nord Sardegna, va? Come mi ascolti, Gappa? Ti ascolto abbastanza bene, prova a parlare di col segnale. Amico, amico, ci vedi come ti arrivo K? Segnale 910, la radio è 5, non posso anche 5 perché è un po' compressa, là, ci sente che è un po' compressa, ma segnale 910, buono. E K, dai, tutto Roger, io sono a Rugo di Puglia, a Bari, K. K, segnale di 7, una radio di 5, tutta pulita. In questo momento, guarda, quanto ti arrivo? Mo mi arrivi quasi 9-10, tutto pulito, capa. Andale, va benissimo, dai. Io sono qua con degli amici in ruota, non so se ti sento, provo a passarti Natalino, avanti Natalino, Alfa 1. Già lo sento l'amico, lui non mi sentirà perché sto scendendo con un VAP, l'amico della Puglia, va. Sì, ti sento pure a te, senza problemi, ma tu lo state modulando, cazzata. Città di Sassari, nord della Sardegna. Ah, ho capito, sì, ho capito, tutto oggi. Comunque è una bella distanza, comunque ci sentiamo, capa. Propaganda momentanea, se è già sparito forse. Avanti Viola, se ci sei la microfono. Mi senti ancora? Sì, ti ascolto, ma la propaganda anche poco fa, un amico di Pari stava parlando, poi è scomparso di colpo. Dove è stabile, diciamo? Vabbè, comunque è stato un piacere sentirvi dire due chiacchiere. Ci vediamo alle migliori, grazie. Il piacere è stato nostro, ciao, ci sentiamo, aspetto la rimano, ciao. Chi sei quanti kilowatt al sotto? Ma non ti credere, ma. Vabbè, ma per questo Smith era io 9.15, un segnale allucinante, credevo fosse al Sassari prima, poi invece il segnale è sceso, molto oscillante, dai. 9.10 qua arrivava, 9.10, ma io gli avevamo lo stesso segnale attaccato. Venga. Devono avere una bella stazione sotto. Ma era il segnale mio. Io arrivavo con 9.10, lui mi arrivava con 9.10, con chi? Ehi. Vabbè, conta, allora hanno antenne veicolari, però molti watt, diciamo. Camionisti, se c'è un barchino non ce n'è uno, che sia omologato. No, ma non era in casa questo qua, ma che cosa può fare in casa? In casa era, sai che da come modulano sembrano camionisti, dai. No, c'hanno gli apparati sicuramente truccati, cosa ne so. Oggi forse c'è propagazione, ma è passeggera, vero Antonio? Questo non è che sia stato di sa che cosa, questo punto di propagazione. E già ne ha fatto propagazione. Io non ne ho fatto di ex perché me ne è passata la gana. No, lo sai che ho trovato che è sempre Salvatore a comprare il pesce da me. E chi il grasso? Ehi, ci ha piantato un'agenzia di viaggi. Oh, scusate se mi avete chiamato, io purtroppo ero al telefono. Ehi, Claudio, non c'è problema. Ci avevo immaginato. Ti stavo dicendo, ci ha piantato un'agenzia di viaggi. Ma lì a Porto Torre? Sì, lungomare c'era. Dove c'è Robertino, quello di tutti i ricavi, non so se lo sa dove. Ehi, cazzo. Ma è sempre il buffo, è sempre stravagante, come il resto. Ehi, lo so. Beh, vado lì. No, c'è la mia agenzia di viaggi adesso. Noi vestiamo abbastanza sobri. Io vedo signori di 50, 60 anni, certe volte, pantaloni gialli, giallo banana, la giacca rossa, cose del genere. Io non ho mai messo colori del genere. Io gialli li ho avuti una volta solo i pantaloni, ma da ragazzo, ti parlo di quando avevo 16 anni, 17 anni. Ed erano quelli di comprare a Maxi Club. Pantaloni che erano anche di marca, non mi ricordo se che marca era. Però eravamo comprati già, non per scritto così, perché non me l'avevo mai comprato. E me l'avevo si fatto, capisci qua che diceva, carate, sei un canalino, allora non è di più busto. E vabbè, da ragazzi è un conto. L'altro giorno c'era un signore grande sui 60, tutto vestito a pasticcio, le calze celesti, che ne so, pantaloni verdi, tipo verde leghista, la giacca allo stesso di un colore sframato. Così è vestiti a clown. Tipo pappagallo. Come pappagallo di parlare. Che cazzo è grosso. E vabbè, siete un po' strapagante, non è che... Sì, le piace forse stare al centro della tensione, farsi lontano, non lo so. Sì, perché lo faccio? O magari mi piacciono anche. Molto di più le camicie, anche le camicie bianche, tipo jeans, camicia bianca. Adesso sto usando magliette così, non... una volta mi vestivo anche in cravatta così, elegante, adesso invece non ho più gana, poi il colletto, mamma mia, mi dà fastidio al collo il colletto chiuso con la cravatta. Cioè, prima andavo meglio, vestivo anche bene se volevo, adesso non me ne fate più nulla. Ma adesso non si usa più la cravatta, non mi ne vedo in cravatta, sono la cerimonia, tipo matrimonio, roba così, si mette in cravatta, ma se no non si usa più. Prima anche per uscire il sabato io non mettevo la cravatta, che usa giacca, cravatta, montone, tutte queste cose qua, non si tratta di più. Ecco, chi è? Sono sempre di Ugo, mi sa che ho parlato con te prima, capata. Io sì che hai parlato con me, dai. No, stavo parlando appunto di roba da vestire, roba stravagante. Ah, ho capito, ho capito. Ok. Come segnale ti faccio adesso, cambio? Senti, a 9:15, dai. Esci là. Esatto, dai, tutto pulito, ok, dai, ho aumentato un po' il compressore qua. Ma non è questo. Mare. Cattava. A Bari. Bari. Pagate il secondo me se ne sta andando. Andate, dai, ti salutiamo perché tanto poi magari sparisce e se non ci possiamo manco salutare. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, saluto pure l'altro amico. Sei sicuro che sia a Bari tu, sì? Sì, sono a Bari, sono Rugo di Puglia, a Bari, cazzata. Complimenti veramente, pensavo che eri qua sotto casa mia, 9:20. Tutto oggi, io sto a casa e mi trovo a Rugo di Puglia, più un po', di 6-7 km, diciamo, lascia prima di Bari, cazzata. Ah, complimenti comunque, veramente. Pensavo che eri qua a Sassari, 9:20 qua stai facendo a casa mia. Comunque, buonasera, Claudio Sparviero, il mio direttore generale di Canosa di Puglia. Ah, ho capito, Canosa di Puglia, sì, so dov'è, sì. Lo so, ma sei dell'esercito? No, una multinazionale spagnola e il direttore generale è barese di Canosa di Puglia. Non ci sono problemi, dai, è stato un piacere, io vi devo lasciare perché devo andare a fare un servizio. Ci sentiamo le migliori e un abbraccio qui dalla stazione Croma 2 in Rugo di Puglia. No, aspetta un attimo, devo fare una domanda, quanti watt stai usando? E questo uscendo con un Galaxy Saturno, un lineare Zumba e con 150 watt adesso, una scheda Eco. C'è una mano un turco sopra il terrazzo, cavaga, va dai, anch'io sto uscendo con un cane, Saturno Eco, il microfono, come si chiama, l'Eco Plus, Saturno Eco Plus, niente, e basta, sono liscio. Sì, vengo tutto, vediamo se mi sentite, sono liscio, e te vedi Reggiani, c'è Toleco Plus, Master Plus. anch'io sto andando col garage, però il microfono non è MB più 5. Sì, sì, si è abbassato un pochino, ma comunque stai andando fortissimo, e complimenti veramente. Ciao, andiamo a visto, grazie, lo uso. Solo con la potenza dell'apparato sta arrivando Santiago 9 qua a casa mia, Santiago 9. Adesso trovo tutto aperto, il solo apparato. Guarda, veramente complimenti, non so cosa dirti, veramente complimenti. Segnale 9 con solo la potenza della radio, quindi grazie, saranno una decina di watt, 10, 15 watt, non lo so, il mio ne dà 12. Modulati ne da una ventina, però diciamo che insomma sono tutti così. Va bene, va bene, complimenti ancora, complimenti, avanti Marco. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, a presto, ciao. Sì, sì, sì, bravo, bravo. Mania, domania. Marco è l'unico che non c'ha Saturnenco, quello lì aveva Saturnenco, io c'ho Saturnenco, tu c'è Saturnenco, Marco è l'unico che non ce l'ha, io Marco troppo. Ma o non ci sta qua, non ci sta. È difficilmente imboscabile, anche Natalino non ce l'ha però. Ma Natalino già ce l'ha avuto. Io me lo vendo, chi cioè 200 euro, chi lo vuole, 250 con l'MB più 5, così come sto modulando io. E quello lì ci vuole lo shooter. C'ha una modulazione paurosa col Saturnecco. Sì, lo shooter è troppo umano. A me mandava il pulughito, esci benissimo. Alla grande, poi sappi che io ho il tana più 3 e il tana più 2. Non ho problemi, amici, c'è la tattora è qua, le bogo bogo attaccarlo. A voi dove potete indire con le sciure, ciò che è troppo forte per me, non fa. È meglio tenere questo che è un po' più calmo. Tana più 3 c'è bideggia dopo la recce, c'ha troppi acuti, capito? Va bene, va bene. Comunque chi lo vuole, Saturnecco con MB più 5, nuovo nuovo, tutto nuovo, garantito, 250 euro. E se no 200 euro solo la radio. Grazie, grazie, non lo vedo più. Prego, prego. E a Natalino mi piaceva Saturnecco, vero? Bello, bello Natalino perché è una radio completa, per me, io l'ho sempre detto, l'unico baracchino, a livello di baracchino, perché io baracchino questo per me. Completo il Saturnecco, 220, base, c'ha tutto, canali, frequenzimetro, c'ha tutto completo, veramente, è una bellissima radio, bellissimo baracco la base. Un chito va in tutto, è l'idrati uno, cosa sta in chi via, avere mille baracchini barossi. Poi finì. E si allena, passeggeri, ma a Roacone, a pigliare. Ma infatti un'altra fisiatura per l'età, quando mai qui è troppo uno di riserva, nel senso che se uno si rompe o se c'è qualche problema, hai l'altro, ma averne 4, 5, 6, 7, molti per agire, cosa te ne fai? Uno addirittura è montato sopra un mobile, cazzo, non so più usato. No, io i baracchini sono tutti dentro l'armadio, li ho provati e li ho rimessi a posto. C'ho il DAC che è sempre in funzione e adesso sopra il DAC ho messo il Galaxy perché ci sta giusto giusto e va bene lì. L'altra parte è tutta amatoriale, non mi posso munire i baracchini e baracchinetti. Io ecco c'avevo l'857, lo Yesu in banda laterale, c'avevo, dopo sopra gli avvenne la poco da parecchio, ma c'è una fotografia che era successo. E allora, tarne più 3, tarne più 2, shooter, certo. Io venivo nei poco di microfono, MC60. Bei tempi, dimmi Marco. Il tuo cos'ha? Una PT3006 o una... come si chiama? Cyber? Vai, non ammala. Che cosa ci fa vedere? La scheda del tuo Saturn. Come cavolo si chiamavano le schede prima? Cyber? Boh. Boh, Marco, non lo so. Io ti sto dicendo che questo è original Maris, originale. Ah, poi finire. C'ha solo la modifica della potenza, capito? Fatta professionalmente, non a cagadura, e basta. E c'erano 25 watt in AM e 50 in barra laterale, basta, non c'è altro, il resto è tutto originale. E vabbè, ci può tenere di più esternamente. Cosa? Sì! Ho detto, si può ottenere anche di più esternamente, 100 in AM e 200 in barra laterale. E già, già me ne posso, già non devo fare le regali. Baracchino, questo è più che sufficiente. Arrivano per 10 a Valerio con 10 watt, cosa per quello che elogiamo noi a fare due chiacchiere. Se devo cambiare, spengo questo e commuto a 440, c'ho 100 watt, cosa me ne faccio? No, va bene così, questo anche troppo. Mi ha mandato la foto, hai visto? Poco spazio c'ho io. Franco di Sorso, e allora basta un baracchino e buco. Allora, buonasera a tutti, ciao Gianni, ciao Marco e Natalino. Avanti a te Gianni. Ciao Fra, mi hai sentito dopo tanto tempo. Poi questo oggi non c'è diritto, no? Oggi siamo tutti liberi, oggi e domani. Ciao Franco, ben sentito, ben entrato, io stavo per andare a preparare qualcosa, però già c'è il microonde che lo prepara, che lo scalderà, fra poco vado. Ben entrato Franco, dai. Ehi, a me è piaciuto molto, un'opera d'arte, però anch'io, tatuaggi zero, io sulla pelle non voglio niente di indelibile. Piace anche a me farlo a vederle queste cose, però diciamo che a averne io no. Ieri sera ho visto quello lì, 10 anni, ma era bello quello. Che io non lo conosco, diciamo, il suo cane, però se è uguale, guarda, è uscito perfetto, è uscito, veramente. Avanti Claudio! Ciao, sì, è la foto del suo cane riportata praticamente su tatuaggio. Benissimo. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non me la metto più. Boh, vabbè, quando me la metto te lo dico. Quella foto che ha mandato Fra, il pezzo che vedi è il suo di linea, è la linea completa quella. Sì, l'avevo visto già quello lì, vabbè. Insieme, tutti e due insieme, no? Sì, infatti anche quello l'ho preso lì dove sei. Va bene. Quello è una bella cosa. Mi è sempre piaciuta quella lì da avere e poi ho avuto la possibilità e me l'avevo pigliata di seguito. Va bene, avanti tata lì. Ora, lo farà. Ehi, arrivi. Ma sai che ce l'ha facciata, ti vuoi dire una cosa? Non va, compagno. Ciao Marco, senti qua, c'è la moto. che diversa qua è. Oggi ti fa, diciamo, una modulazione bella pugnante. Chi è? Leggermente metallica. Oh già, ma Marco chi? Marco, un amico nostro. E beh, Marco. Ma non Marcolino, il figlio, no, di Gianni? No, questo è più grandetto. Infatti ho sentito la voce da Homo Maduro. L'ha sentito? No, non l'ho sentito. Ma le 50 lire ce le ha? Cazzo, in che situazione mi hai messo? Che studio. Ma la lì, anche più bambino, no? E allora, in che situazione mi ha messo questo Marco? Boh. Andiamo, Marco, andiamo. Va bene, dai. Mi voglio una voce fortunato a me. No. Lei è amico di anche di Gianni. E abita lì vicino a Gianni. Ah, no, allora la voce sembrava la voce di Fortunato Lacchi. No, era lui, no. Vabbè, io non lo conosco, quindi non posso esprimermi. Va bene, va bene. Siamo una bravissima persona. Lavoriamo sempre insieme, lavoriamo in cucina. Diciamo, come carabinieri siamo noi. Ehi, ma Marco già è tranquillo, già è in campo. Va bene. Anzi, c'è la croce con lui. È troppo in gamba, Una persona veramente top. Squisita. È un bel amico, veramente. Poi da tanto già lo conosci. Che auguria. Poi me la posso spiegare che sai cosa è 50 lire. Mica me la posso spiegare a Marco, me la posso spiegare. Sai che è impegnato, sto sempre il passo. Stavo facendo roba a casa. Ah, già. Vabbè. Alla macchina, dove la gomma di scarto, queste cose qua. il pene e lo si sporca la gomma, che fortuna si sporca e ce la buttiamo, però non va bene, perché poi non è solo a metterla per terra, poi anche a raccoglierla, che viene un po' più male. Sì, come dice tu qui, c'è la busta, attacchi di affatti, che è un vino che ti finisce la mano. Ma tu sei solo, stai solo al muletto oppure aiuti anche nella caffetta? Io faccio tutto, sia al muletto e quello che da fare, vabbè Marco faccio anche il suo, faccio. Io prima faccio bene per la terra che non fa Marco, poi io me ne sono uscito perché non mi piaceva, mi hanno gli abboli e allora sono andato a lavorare, è tutto, va bene di più, però fa più bene là, no? Sul muletto. E giro, vado fuori, non so sempre chi sono tutti. Ah, eccoci. Oh, dai, io vi saluto, mi preparo che devo uscire a portare il cane e poi c'è la partita, c'è la Champions e quindi mi guardo la partita. La più cordiale, buonasera a tutti, ciao Franco, fatti sentire, noi siamo sempre qua, non abbiamo problemi. Ciao Marco, ciao Natalino, ciao Gianni, Valerio se sei in ascolto, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Buon fine serata a tutti, buon proseguo di QSO per chi prosegue. Il cambio per Marco, se non stai mangiando, se no riprendi tu già. Ciao Claudio, ci sentiamo da qua a passeggiare. Ciao a tutti quelli che mi hanno salutato, Valerio, mi è sembrata la voce di Bacchisio. Ciao a tutti quelli che sono ascolto sul canale 10. Buon proseguo a tutti e buon fine serata. Vai Franco di Giosu. Ciao Claudio, buon proseguo, buon tutto, buona partita, ci sentiamo. Ehi, ciao Cla, alle prossime, buon tutto. Ehi, c'era anche Valerio, non so se abbia chiuso, ma c'era anche lui. Ma io mi pare che ore sono, diciamo qui 15, dopo vado anche io, a portare giù il carro. Guarda, non è un'impresa, ti sprona a uscire, conosci un po' di gente, per me è una cosa positiva, ti dico la verità. Da quando io ho il cane ho conosciuto tutta di quella gente che tu non hai mai qui. Attento però quando porti a passeggiare il tuo cane lì, che non incontri a Marco. Marco è un padrino, come ti lo vedi comincia a correre, ti va incontro, non te l'ha mai contato. Ti va incontro e salta addosso. Lui dice che è il padrino, dice vai, figlio di un cane. Ma ieri notte, quando sono arrivato lì già, ho passeggiato la macchina e sono sceso. E c'era lui Marco, sono avvenendo, e nei tappeti. E mi si avvicina a me, questo cane mi ha leccato la mano. così, no? Lo so, dimmi la questo. Trovatelo a Marco, cosa fa dai piccioni. Noi, a volte noi abbiamo delle cartone che dobbiamo piegare per fare le carte, no? Per l'imballaggio della produzione. E mentre stai piegando un pulitene, no, se lo so che ti cagano sopra. Quindi portano soldi. Vabola, vi saluto tutti, dai, che vado giù io, se mi preparo e vado, se no non mi viene più gara. Mi piace star per lei sdraiato a letto con il fumetto di Mandroni e non fare nulla. E adesso vado, dai, faccio un giro, poi faccio da mangiare e poi ci guardo la televisione. Dai, buona serata a tutti, ci sentiamo, salutami tutti bene. Ciao Natalino, ciao Marco, Valerio, tutti quelli che ci sono in ascolto, mi sembra che ci fosse anche Marchisio, saluto anche a lui e vi auguro una buona serata, buon continuo con il show. Ciao, proprio dunque l'esecutivo. Ciao già, buon correttivo, anch'io saluto tutti e me ne sto andando, che devo fare qualcosa qua. Il mio cane già è con la mia signora e non sono ancora tornati. Ci sentiamo alle prossime, va? Ok, dai, allora vi saluto anche io, vai, per rimanere al toro. Ci sentiamo tutte le prossime, dai. Ciao Natalino, ciao Gianni, buon fortuno con tutto, ci sentiamo. Ciao anche a Marco, che sta mangiando, ci sentiamo. Arrivederci, a domani, dai. Anche a Valerio, anche a Valerio, fai a tutti l'ascolto. Via, un attimino, Ciao Gianni, ciao Natalino. Oh fra, avevo chiesto a Claudio me per il 4,40, lui ha speso 2,40 più la spedizione andata e ritorno, 2,40 in tutto per il 4,40. Sì, sì, lo so. Oh, sempre Bianconi, perché sai, c'è l'intervento, poi siccome è roba che pesa, la spedizione costa di più, per quello, Ok, dai, buona serata, tanto sono tutti fuori, andati e chiudo anch'io, dai, ciao, ciao Franco. Ehi, ciao, ciao Marco, no, la spedizione non la pago, quella la risparmio, la faccio a mano, sentiamo, ciao. In barca la porti. Ciao fra, ciao ciao, buona serata. Ciao Cavalerio, ciao a tutte quelle che ascolto, ciao.